parrà come il più grave errore di politica estera commesso dalle potenze occidentali. I sauditi, infatti, usarono le loro illimitate risorse di greggio per costruire scuole, le madrasse, che propagandavano l'ideologia estrema e puritana del loro beneamato e fino a quel momento insignificante, Muhammad ibn Abd al-Wahhab. E il risultato fu che il wahabismo, da culto marginale qual era, si rafforzò fino a infestare l'intero mondo arabo. La sua ascesa diede fiducia e slancio ad altri movimenti estremisti. Man mano che guadagnavano potere, le ideologie estremiste, il wahabismo, il salafismo, il khomeinismo, il deobandismo e le madrasse finanziate dal petrolio saudita sfornavano generazioni di uomini barbuti con il paraocchi e il pugno facile. L'Islam si allontanava sempre di più dalle sue origini e questo proprio mentre pretendeva di rivendicare un ritorno alle radici. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Salman Rushdie, Joseph Anton, Mondadori, 660 pagine, 25 euro.